L'esecuzione del rito d'adorazione. L'esecuzione del rito d'adorazione, 5 volte al giorno, è il secondo pilastro dell'Islam. L'esecuzione del rito di adorazione è la colonna portante dell'Islam e la sua fondamentale importanza è definita con estrema chiarezza in un insegnamento del profeta, che Dio lo benedica la ben gloria. Disse infatti: nel giorno della resurrezione, la prima voce che sarà esaminata sul conto del servo è il rito d'adorazione. Se il risultato dell'esame sarà stato positivo, anche tutto il resto sarà approvato. Ma se il risultato dell'esame sarà stato negativo, allora anche tutto il resto sarà riprovato. Il dovere quotidiano del rito d'adorazione deve essere adempiuto in ben definiti archi di tempo del giorno. Dice Allah l'Altissimo nel sublime Corano: in verità, l'adorazione quotidiana è, per i credenti, un dovere da adempiere in tempi prescritti. Nelle 24 ore del giorno, i riti d'adorazione prescritti sono 5. I tempi nei quali ciascuno di essi deve essere eseguito sono legati al moto apparente del sole e alla luce solare. Il primo rito d'adorazione è quello dell'alba, Salatul Fajr. Il suo tempo inizia al primo albeggiare, cioè quando, a causa del moto di rotazione assiale della Terra, i primi raggi solari sfiorano gli strati più alti dell'atmosfera della volta celeste del luogo dove il rito deve essere eseguito. Esso termina poco prima della levata del sole. Il secondo rito di adorazione è quello del mezzogiorno, Salatu Dhuhr. Il suo tempo inizia dal momento in cui il sole, dopo aver raggiunto lo zenit, incomincia a declinare verso occidente e termina nel momento in cui l'ombra gettata da un corpo è lunga il doppio dell'altezza del corpo che la proietta. Il terzo rito di adorazione è quello del pomeriggio, Salatul Asr. Il suo tempo inizia quando si è esaurito il tempo di Salatu Dhuhr e termina poco prima del tramonto del sole. Il quarto rito d'adorazione è quello del tramonto, Salatul Maghrib. Inizia quando il sole è calato sotto l'orizzonte e a termine quando tutta la luce solare è scomparsa dalla volta celeste. Il quinto rito d'adorazione è quello del calar delle tenebre, Salatul Isha. Il suo tempo ha inizio al calar delle tenebre, cioè quando a seguito del moto di rotazione assiale della Terra, tutta la luce del sole ha lasciato gli strati più alti dell'atmosfera del luogo dove il rito deve essere eseguito e finisce alla metà della notte, cioè alla metà del tempo che intercorre tra il calar delle tenebre e l'alba.